quasi 30 adesso, per dire la verità. Allora c'era l'interesse per questo destino personale, come ho detto, e poi naturalmente anche un grande interesse di avere questa visione dietro le quinte, di sapere delle verità che normalmente non si viene mai a sapere, che sono le verità dietro le porte chiuse di una multinazionale. Jörg Sambet scrive cose ancora più importanti nelle pagine di un libro uscito in Germania e in Francia, Schwiezenfall, in Seveso. Una denuncia forte e documentata, un vero e proprio atto d'accusa contro la multinazionale della chimica, Hoffmann-La Roche. Lichmesa veniva chiamata Dreckfabrik, fabbrica sporca, ben prima della catastrofe. Questo perché non si erano fatte le opere di sicurezza e di modernizzazione normalmente richieste. I controlli erano evitabili. Così il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza che non facesse salire la temperatura oltre i 170 gradi. L'esplosione del reattore è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo, che serve per l'agente Orange, è un erbicida vietato perché usato per i bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore ai 170 gradi. Da 10 luglio 1976 i cittadini di Seveso e Meda si sono riuniti in un comitato. Hanno, cioè, proseguito una battaglia legale contro la Givaudan. E nel 2002 la Corte di Cassazione ha dato ragione agli abitanti della zona. Questo è il passo decisivo della sentenza definitiva. In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione, in quanto abitano o lavorano in detto ambiente, e che provino in concreto di aver subito un turbamento psichico, sofferenze e patemi d'animo, a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica, danno biologico di altro evento produttivo, di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo, che comporta, oltre all'offesa all'ambiente e alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale. Ventun famiglie di Seveso e Meda sono state costrette da un bisticcio giuridico a restituire poche decine di migliaia di franchi alla Givaudan. Queste famiglie erano state risarcite dalla multinazionale negli anni Ottanta. Nei confronti di quanti non potevano pagare, la Givaudan aveva utilizzato metodi forti, pignorando le loro case. Leonardo Auletta è uno dei capifamiglia interessati. Questo è l'appartamento. E loro mi hanno pignorato 19 metri di questo appartamento, questa è una sala di circa 20 metri, sarebbe la loro in questo momento. E, non so, mi tolgono via un pezzo di casa, cosa fanno? Non possono dare con una mano e poi prenderne con due, cioè, non so se mi spiego. Cioè, danno 10 milioni e dopo 10 anni ne vuoi 16 mila euro indietro, per quale motivo? Un pezzo di una casa che sto lavorando giorno e notte per pagarla. La TV della Svizzera tedesca ha raccolto la risposta del presidente del consiglio di amministrazione di Givaudan, Urg Widmer. Lo dico molto sinceramente, ho riflettuto parecchio su questo caso e dovrò ancora rifletterci. Qual è la nostra responsabilità? Un tribunale ci ha dato ragione. Posso io, in veste di direttore di una società, dire semplicemente: va bene, adesso rinunciamo a questi soldi? Questi soldi non appartengono a noi, ma ai nostri azionisti. D'altra parte, nutro una totale comprensione per questa famiglia. Non si tratta di somme ingenti. Io stesso fino a 2 giorni fa non conoscevo questo caso, quindi ci rifletterò di nuovo molto volentieri. Cosa è giusto? Anche tenendo conto di possibili conseguenze. In fondo non si tratta soltanto di alcune migliaia di franchi relative a questo caso specifico. Si tratta delle possibili conseguenze per altre situazioni con cui potremmo essere costretti a confrontarci qualora per questo caso dovessimo trovare una soluzione generosa. 30 anni sono passati dall'incidente dell'ICMESA del 10 luglio del 76. 30 anni dopo Seveso le cose sono cambiate. Imprese, sindacati, singoli cittadini. La coscienza maggiore di quella degli anni 70. Allora non si conoscevano gli effetti delle produzioni chimiche ad alto rischio ambientale. Oggi invece sono in vigore leggi europee, italiane, molto precise e molto severe. Sono direttive, regole, valgono per tutti. Oggi non potranno più esserci giorni del silenzio. Oggi basta solo applicare quelle leggi. Ma resta sullo sfondo un nodo rimasto ancora irrisolto. La lunga battaglia per la verità e la giustizia, condotta da persone come Stefania Sen, è un nostro dovere morale, ancora oggi. Dentro di me la storia di Seveso non finirà mai. Mi hanno distrutto veramente la vita, cioè io non ho vissuto per 30 anni. Adesso comincio, grazie a Dio perché ho avuto 3 interventi, e comincio ad accettarmi di più. Ma non riuscivo soprattutto ad accettare, oltre che il mio volto, il fatto di essere stata distrutta, rovinata, e il dover star vita in tutti questi anni dimenticata da queste persone che mi hanno rovinato, che invece avrebbero dovuto avermi nella coscienza, proprio abbandonata, dimenticata da chi ti ha rovinato. Giallo e nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.